vediamo che la partecipazione del pubblico c'è, è molto forte, molto intensa, di questo siamo estremamente contenti. È un luogo che resiste indubbiamente di questi tempi. Sì. Gioia, no. Quanto passerà per il prossimo appuntamento? No, è una volta al mese, adesso precisamente la data di marzo non la ricordo, perché okay. Sono un po' così, mo ce so, però mo me vedi, però te lo faccio sapere, ti mando un vocale. No, volevo dire un'altra cosa, stamattina proprio sono in vena, volevo dire che un luogo che resiste come resiste, diciamo, come resistiamo noi, come resiste un po' la comicità sempre, no? Nei periodi. Questa è una cosa bella del nostro lavoro, cioè che comunque la comicità è un linguaggio che proprio è duro, insomma, resiste, è resistente, e questo mi piace molto. Beh, detto poi, dimmi. D'altronde 23 edizioni parlano da sé, insomma. Ah sì, ma poi comunque sai, è una cosa iniziata con grande entusiasmo, che poi dopo comincia a trovare sempre di più una sua forma, a cui stiamo lavorando con grande dedizione e grande passione, quindi questo è un'ottima alternativa ai tempi moderni che io rifuggo, depreco e mi vorrei rifugiare certamente in una certa Roma antica, non so, anche prima, i fenici. No, tornare ai fenici, va bene, con questo messaggio di speranza. Allora, ricordiamo l'edizione numero 24 di Sgombro Varietà Tragicomico, venerdì 15 febbraio al Nuovo Cinema Palazzo a Roma. Un saluto e un ringraziamento ad una delle anime, Gioia Salvatori. Grazie, un saluto a voi, che proprio veramente un abbraccio grande, buona giornata. Ciao Gioia. Ciao. Con Chiara Ambrosio per parlare della prima rassegna del Teatro Popolare di Verona al laboratorio autogestito Paratolos dal 27 gennaio al 9 giugno 2019. Chiara, ben trovata. Buongiorno a tutti e a tutte. Ci racconti? Il format del Teatro Popolare nasce l'estate scorsa sul modello dell'ex OPG Soppazzo di Napoli, che appunto attua questo progetto su tre livelli. Primo, laboratorio di teatro aperto alla cittadinanza, per poi proseguire verso una rassegna e una produzione teatrale propria. Come sarà sviluppato nel corso di questi mesi? Allora, noi appunto abbiamo iniziato a dicembre con un laboratorio teatrale gratuito condotto da un'attrice, Laura Pece, che ci sta formando, e parallelamente a ciò stiamo costruendo la prima rassegna teatrale, che è stata inaugurata il 27 gennaio in concomitanza della Giornata della Memoria. Ogni spettacolo della rassegna ha una tematica diversa, sono tutte tematiche sociali, perché l'obiettivo principale del Teatro Popolare di Verona è un modo diverso di fare teatro, ovvero non legato tanto alle logiche del profitto mere e proprie, ma al ritorno del teatro come ruolo politico e sociale. Vedo che gli spettacoli sono tutti la domenica, tranne il secondo, sabato 16 febbraio. Sì, esatto, il secondo sarà sabato 16 febbraio e tratterà come il seguente la tematica del lavoro, è patrocinato dall'ADL sindacato ed è una produzione propria del Teatro Popolare di Napoli. Come avete scelto questi lavori? Sono stati selezionati anche in base alla disponibilità delle compagnie teatrali a venire da noi a rimborso spese. Infatti il nostro format è ingresso libero e uscita a cappello, e quindi le compagnie stesse hanno un solo rimborso spese. Per quanto riguarda le tematiche, ci siamo focalizzate sugli argomenti che secondo noi sono, diciamo, di urgenza. tendenza attuale, come per esempio gli spettacoli di marzo che parlano appunto di tematiche inerenti al femminile, il tabù delle mestruazioni, del sesso e via dicendo, e tra l'altro si inseriscono all'interno di manifestazioni come l'8 marzo e la città transfemminista di Verona. Ci racconti anche un po' la realtà del laboratorio autogestito? Sì, allora il laboratorio autogestito Paratodos è uno spazio che funge da contenitore di varie realtà, a partire dal sindacato ADL, da un corso di pizzaioli aperto anche ai rifugiati e comunque a persone con anche un basso reddito, accreditato dalla regione. Poi fanno parte del laboratorio Paratodos anche una falegnameria e comunque tutte le realtà come noi che sfruttano lo spazio per i propri laboratori, come noi appunto del Teatro Popolare, la Palestra Popolare, il gruppo di tango e via dicendo. È uno spazio sociale, tutte le attività appunto vengono fatte a prezzi molto agevolati o comunque a offerta libera. Nella città di Verona la realtà teatrale di base come si esprime? Che realtà c'è? Personalmente credo che si potrebbe fare molto di più anche a livello di teatro sociale, di teatro contrapposto alla solita logica del profitto, ed è appunto per quello che noi proponiamo un teatro che sia antigerarchico, che appunto recuperi le funzioni che i grandi maestri ci hanno tramandato. Noi vogliamo un teatro indipendente, senza censure, fatto delle esperienze di ognuno di noi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Allora, potete contattare me al 329-3312-003, ci potete seguire sulla pagina Facebook Teatro Popolare di Verona, oppure mandare una mail a teatropopolareverona@gmail.com. Ricordiamo allora la prima rassegna del Teatro Popolare di Verona al laboratorio autogestito Paratodos dal 27 gennaio al 9 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Ambrosio. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Con Matteo Tarasco, regista dello spettacolo I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij, che sarà a Roma al Teatro Eliseo dal 5 al 17 febbraio 2019. Matteo, ben trovato. Buongiorno, buonasera a voi. Ci parli un po' di questo progetto, di questo lavoro? Sì, è un progetto molto importante, nel senso che mi ha impiegato molto tempo con la Mauri trovare la quadratura soprattutto dell'adattamento, perché come puoi ben immaginare, come i telespettatori e gli ascoltatori possono ben immaginare, trasportare un romanzo straordinario come I fratelli Karamazov, quella grande vastità, le tavole del palcoscenico, implicava un lavoro di riduzione e adattamento molto complesso. E ci siamo incontrati per lunghi mesi con Glauco Mauri, tutti i pomeriggi abbiamo letto e scritto poi di conseguenza questo copione che nell'arco di 2 ore e mezza poi nella messa in scena diciamo racconta tutta la storia dei fratelli Karamazov, delle vicende tristi della famiglia Karamazov e anche quegli aspetti più alti, metafisici, profondi che lo studente propone, ma ovviamente chiaro che abbiamo dovuto fare una serie di scelte sia di rinunce sia di elezione di alcuni capitoli piuttosto che alcuni aspetti della storia. Mm-hmm. Per chi ci ascolta, riassumiamo brevemente la storia? La storia di una famiglia, la famiglia Karamazov, è una famiglia derelitta, di quelle che potremmo comprare molto spesso nel Sicona, che anche in Vienna, adesso non è che la storia di un conflitto familiare tra il padre e i figli che porterà un delitto

veramente straordinari, lo dico non per evidenziare le loro qualità, ma straordinari come esseri umani, hanno soprattutto veramente immersi in questa avventura complessa e affascinante, con tutta la loro umanità, che credo sia il punto di partenza per poi creare in qualche modo un legame con gli spettatori e quindi fare un qualcosa che abbia un senso, non solo per chi lo fa, ma anche per chi lo riceve. Se gli spettatori torneranno a casa e quando si laveranno i denti dopo aver visto il nostro spettacolo, prima di coricarsi, denunceranno da alcune parole incontrite che magari per la loro la voglia di tornare a leggere il nome di Karamazov, allora il nostro lavoro avrà avuto un senso. Ci sono dei riferimenti internet per avere maggiori informazioni? Penso che le migliori informazioni gli ascoltatori si possano cogliere dal vivo al Teatro Eliseo dal 5 al 17 febbraio, come hai detto tu all'inizio. Certo. Sicuramente trovate informazioni sul sito della compagnia Mauri Sturno e sicuramente troverete ulteriori informazioni sul sito del Teatro Eliseo o sul sito della Pergola anche, che è coproduttrice dello spettacolo La Pergola di Firenze. E allora ricordiamo lo spettacolo I Fratelli Karamazov a Roma, al Teatro Eliseo, dal 5 al 17 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Tarasco. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, crepi il lupo, e a prestissimo, vi aspettiamo a teatro. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica vediamo un po' cosa ci riserva questa settimana teatrale romana. Ciao Simone. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, hai saputo quelle cose di cui abbiamo trattato? Dicci un po' tutto il resto. Allora, insomma, una settimana non malaccio, andiamo un po' a vedere che cosa ci offre. Intanto sicuramente ti porto, vediamo un po'. Allora, venerdì 15 febbraio sarà l'occasione al Teatro della Cometa per questo La guerra di Paolinuccio Millardi, per il Salotto Cometa, nell'aperitivo teatrale, quindi venerdì 15, ma attenzione, alle ore 18 ci sarà questo lavoro con Andrea Pugnisi, che è una sorta di conferenza, spettacolo sulla storia avvincente di Paolo Montalto, che è appunto questo Paolinuccio. Dunque, Paolo Montalto, giunto alla soglia di 100 anni, racconta la sua guerra, insomma, quindi è uno spettacolo che va ritroso all'interno della storia contemporanea italiana e appunto attraverso gli occhi di questo Paolinuccio, Paolo Montalto. Dunque, questo per quanto riguarda La Cometa. Andiamo a vedere qualcos'altro. Allora, ti porto al Brancaccino, dove appunto Giorgio Colangeli sarà con L'uomo la bestia e le virtù di Luigi Pirandello, con tutto sommato la regia di Giancarlo Nicoletti, che è un giovane regista, ma molto, molto interessante, ha fatto già alcune regie piuttosto seguite. E l'abbiamo anche in archivio. Esattamente, sarà al Teatro Brancaccino fino al 17 di febbraio. Insieme a Giorgio Colangeli ci sarà Filippo Gili. A questo proposito, visto che citiamo Giorgio Colangeli, ricordo che sul mio blog Tutta Scena 1 abbiamo anche ripubblicato il contributo di Giorgio Colangeli, che ha letto La caduta della Repubblica Romana di Carlo Pisacane, quindi è fruibile online. Benissimo. Allora, continuo parlandoti del Teatro Ambra Iovinelli, dove c'è Giuseppe Battistone che porta in scena questo Winston contro Churchill. È un testo che, insomma, ovviamente va ad indagare questo grande leader politico, Winston Churchill, che ha attraversato il Novecento europeo, e sarà in scena appunto al Teatro Ambra Iovinelli dal 13 al 25 di febbraio. Poi ancora ti porto al Teatro Studio 1, dove va in scena La Lirica, da Gioacchino Rossini a Cesare Sterbini, regia di Tre Barba, che vedranno dal 14 al 17 febbraio, si alterneranno insomma in questo lavoro che attraversa la prosa, ma portando i libretti delle più celebri opere liriche del Settecento. Quindi 14 e 17 febbraio al Teatro Studio 1. Al Teatro Vascello invece Eugenio Barba torna l'Odin Theatret con L'Albero, sarà in scena dal 13 al 24 febbraio. Una compagnia che non ha bisogno di presentazioni, quella dell'Odin, L'Albero della Storia, cresce forte e morto. Intorno ad esso bambini soldato e monaci in preghiera danzano insieme ai signori della guerra, una madre rabbiosa e la figlia di un poeta che da bambina sognava di volare via con il padre. Quindi qualcosa di immaginifico, qualcosa di poetico tra le mani di Eugenio Barba, spettacolo dedicato a Inger Landstedt. Ecco, bravo, bravo. Io col danese, comunque ho studiato danese nel... Ok, quindi a Teatro Vascello 13-24 febbraio per L'Albero dell'Odin Theatret. Poi ancora andiamo al Teatro Quarticciolo per questo Beast Without Beauty di CNC. Carlo Massari, coreografo, presenta questa creazione originale al Teatro Quarticciolo, appunto 16 e 17 di febbraio. Si tratta di uno sguardo fermo, freddo, gelido, impietoso sulla società, attraverso un irriverente cinico studio sugli archetipi della miseria umana. Quindi Beast Without Beauty, 16-17 febbraio, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi al Teatro di Roma andiamo a vedere, al Teatro India, 12-17 febbraio, 12 baci sulla bocca, il secondo del dittico della compagnia Nest, con il testo appunto di Mario Gelardi, la regia di Giuseppe Miale, Di Mauro. 12 baci sulla bocca porta dentro la realtà di dinamiche malavitose che infestano la nostra società. La compagnia Nest, insomma, è una compagnia di Napoli che ha un teatro in un territorio piuttosto complesso, e quindi probabilmente anche da questo nasce la necessità di raccontare il territorio napoletano a partire da queste attività appunto criminali. Invece nell'altra sala del Teatro India andremo a vedere la riscrittura del Giardino dei Ciliegi di Chekhov, curata dalla compagnia Kepler 452, 14 e 17 febbraio. 30 anni di felicità incomodato d'uso, un lavoro un po' particolare con la regia di Nicola Borghesi, una storia di un incontro tra Annalisa e Giuliano Bianchi, che sono i moderni Liubengrave, una emozionante indagine su dove oggi si sia posata la dialettica tra illuminismo e magia, tra legge e natura, e su dove ci troviamo noi. Poi ultimo lavoro che ti vado, anzi, ultimi, due ultimi lavori che ti vado a citare. L'uno è Teatro Argentina per Carlo Cecchi, 12-24 febbraio. Ancora Pirandello, anche qui, dopo aver affrontato i sei personaggi del 2001, ancora più indietro, il 76, L'uomo, la bestia e la virtù, Carlo Cecchi si confronta con l'Enrico IV. Lui stesso in scena ad interpretare appunto Enrico IV, questo capolavoro del teatro novecentesco che Carlo Cecchi cerca di portare in scena, sviluppando un po' le caratteristiche pirandelliane del teatro nel teatro, in cui appunto la realtà, l'arte e l'immaginazione si impongono come unica realtà. Questo al Teatro Argentina, 12-24 febbraio. Ultimissimo lavoro di cui ti parlo, Federico, è che è quello che sarà in scena dal 12 al 17 di febbraio al Teatro Rigaud. La classe, un doc puppets per marionette e uomini, è il lavoro che Fabiana Iacuzzilli ha presentato al Roma Europa Festival 2018 per Anni Luce, e che facendo riferimento alla classe morta di Cantor porta dentro i ricordi personali della propria infanzia del regista in questo caso autrice, che è affondata all'interno della sua storia infantile e scolastica, le esperienze vissute all'interno della scuola che oggi si direbbe paritaria, dove la regista è cresciuta assieme agli altri compagni di classe. Cosa facciamo delle emozioni negative, del male, della paura, delle botte ricevute, ci dice l'autrice di questo lavoro, lo andiamo a vedere. Io l'ho già visto e devo dire che è un lavoro molto molto bello, di cui sono fiero di averlo visto, e invito tutti al Teatro Argo perché è un lavoro davvero molto interessante. È un lavoro anche con il teatro di figura, molto dedicato, quindi da andare a vedere assolutamente. Fabiana Iacozzilli, La Classe, al Teatro Argo, 12-17 di febbraio. E questo, Federico, è tutto. Un abbraccio, Simone, alla prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.